intendo e non intendo, mi par e non mi par, l'intendo, mi par, non intendo, non mi par, mi pare e non mi par. L'intendo e non l'intendo, mi pare e non mi par, ma non mi par, ma non mi par. Mi trovo giù d'imbroglio, di morte, di cordoglio, d'amore e di penar, d'amore e di penar, d'amore e di penar. D'amore e di penar, d'amore e di penar, d'amore e di penar. Fatti li conti nel mio cervello, trovo bel bello, trovo bel bello, che tutti fatti siete ben matti, matti, matti, voi altri amanti. Voi siete pronti a cercar la morte quando la sorte non vi contenta, matti, matti. Ma poi si stenta a dir da dovero, matti, matti. In voi la voglia quando si imbroglia che già il pensiero d'esser galanti. L'intendo e non l'intendo, mi par e non mi par, l'intendo e non l'intendo, mi pare e non mi par, l'intendo, non l'intendo, mi par, non mi par, mi pare e non mi par.